tutto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. La scorta era stata tolta da poco ai tecnici rapiti in Libia, secondo quanto hanno riferito i loro amici, sequestrati da fuori legge, secondo fonti locali. Verso un nuovo piano per l'accoglienza, più migranti nei piccoli comuni, 50 centesimi per ogni richiedente asilo, ancora caos a Como. I 5 Stelle contro l'Italicum chiedono il ritorno al proporzionale e le preferenze. Incubo finito per il momento a New York, dove è stato arrestato l'afghano autore dell'attentato. Si infiamma sul terrorismo la campagna elettorale. A quasi un mese dal sisma torna a tremare la terra nel Reatino, scossa di 4.1 di magnitudo. Si apre il Salone Nautico, settore in ripresa, 800 espositori e 100.000 metri quadri di spazi espositivi in acqua. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, i nostri contatti, effettogiorno@radio24.it se ci volete scrivere, 349-238-6666 per i vostri sms. Vi trasmettiamo oggi in diretta, e lo avete sentito anche nei titoli, si apre oggi, vi trasmettiamo al Salone Nautico di Genova, dove Radio 24 sarà presente parecchio. Domani sarà la volta di Cuore e Denari, poi nei prossimi giorni anche tutti convocati, parecchie trasmissioni appunto in diretta da qua, e vi aggiorneremo anche su questa giornata inaugurale del Salone Nautico, nella quale sono stati anche diffusi dei dati che riguardano il settore, per fortuna incoraggianti. Iniziamo la nostra cavalcata nelle notizie e la iniziamo ancora dai tecnici rapiti in Libia, perché ci sono degli aggiornamenti importanti. Attraverso i suoi contatti locali, la nostra intelligence è già al lavoro per identificare gli autori del sequestro di Bruno Cacace e Danilo Calonego. La pista più accreditata al momento è che si tratti di criminali comuni, ma nella zona del sequestro, vicino ai confini con l'Algeria, imperversano tribù Tuareg, trafficanti di ogni tipo e gruppi jihadisti vicini all'ISIS, ad Al-Qaeda e a Boko Haram. Per ora non sono arrivate rivendicazioni né richieste di riscatto. I due tecnici della Conicos di Mondovì sono stati sequestrati all'alba di ieri sulla strada che porta all'aeroporto di Ghat, dove erano impegnati in lavori di manutenzione della pista. A Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo, e a Sedico, nel Bellunese, queste sono ore di apprensione per i familiari di Cacace e Calonego, ai quali la Farnesina ha chiesto di mantenere il massimo riservo, vista la delicatezza della situazione. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. È finita intanto, semmai è iniziata, la tregua in Siria. 40 persone uccise nei raid aerei russo-governativi su Aleppo. L'aviazione ha preso di mira e completamente distrutto un convoglio umanitario composto da 20 camion dell'ONU, perfettamente riconoscibili e diretti verso i quartieri orientali della città, sotto assedio da mesi. L'entrata degli aiuti ad Aleppo e nelle città assediate era una delle condizioni poste dagli Stati Uniti per il cessate il fuoco in Siria. Staffan de Mistura, inviato speciale dell'ONU, ha definito l'azione un oltraggio. Mosca, però, ha detto che sono infondate le accuse. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha poi aggiunto che la speranza di un ripristino della tregua in Siria per il momento è molto debole. Damasco, dal canto suo, ha accusato i ribelli di aver violato in continuazione la tregua e di essere i veri responsabili del fallimento del cessate il fuoco. Uno scaricabarile che racconta la fine di una tregua durata solo una settimana. Il conflitto è ripartito infatti a ritmo serrato, con una massiccia offensiva via terra da parte di forze governative siriane, sostenute dalla copertura aerea russa. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'analisi di Alberto Negri. Ci sono due guerre gemelle contro l'ISIS, una in Siria e l'altra in Libia, ma la lotta al califfato su questi due fronti sembra passata quasi in secondo piano, se non fosse per il terrorismo ispirato dall'ideologia jihadista che continua a seminare paure in Occidente. In realtà la battaglia contro i jihadisti in Libia si concentra intorno alla Sirte, ma tutto il paese rimane fuori controllo. Il governo di Tripoli, per esempio, esercita una sovranità soltanto nominale nel Fezzan, dove sono stati rapiti due italiani. Li comandano i Tuareg e bande locali impegnate in traffici criminali. Tripoli e Tobruk, l'altro governo concorrente, si devono mettere d'accordo sulla spartizione del petrolio, altrimenti la Libia resterà nel caos. In Siria è saltata la tregua, muore anche la speranza di inviare aiuti alla popolazione di Aleppo assediata. La sconfitta dell'ISIS è ormai un obiettivo secondario di fronte a quello degli attori in campo e degli sponsor delle varie fazioni. Qui è in corso un'altra spartizione in zone di influenza. La Turchia vuole il nord per tenere a bada i curdi. La Russia, Assad e l'Iran, tutto il resto. Gli Stati Uniti e le monarchie del Golfo puntano ancora al cambio di regime e a riciclare i jihadisti in funzione anti-Mosca e anti-Teheran. Ecco perché le guerre gemelle, che hanno fatto centinaia di migliaia di morti e milioni di profughi, non finiscono ancora. E parliamo di terrorismo, dunque 8 altre persone sono state fermate nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato del 14 luglio a Nizza. Gli 8 individui, tutti in contatto con l'autore della strage, Mohamed Lawaje Boulel, sono stati arrestati nella notte tra ieri e oggi, tra Nizza e comuni vicini nel dipartimento. A New York intanto c'è l'attentato che ha colpito la città ieri, l'arresto dell'afgano che è il principale sospettato. Un incubo si è chiuso a New York e in America si sa a questo punto chi è il cattivo che aveva organizzato gli attentati a Chelsea, a Manhattan e in New Jersey. Un evento e una dinamica che hanno ovviamente un impatto non da poco sulla campagna elettorale americana, con una conseguenza. Beh, i democratici erano stati molto prudenti, dicevano non è terrorismo, volevano essere politicamente corretti forse, e in questo modo hanno dato il destro a Donald Trump, che invece è partito all'attacco in modo sfrenato, denunciando il terrorismo islamico, promettendo di chiudere le frontiere a tutti coloro che possono essere una minaccia per gli Stati Uniti d'America. Per Hillary Clinton dunque un altro momento di difficoltà. A questo punto non c'è che da aspettare il confronto diretto, il dibattito di lunedì prossimo qui vicino a New York. Mario Platero, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. E di questo torneremo a parlare tra poco in America 24. Il tema dell'immigrazione tocca l'Assemblea ONU, alla quale accennavamo poco fa, in corso proprio a New York, mentre il governo prova a strutturare un nuovo piano per l'accoglienza. Che la situazione sia tesa lo confermano piccoli episodi come i centinaio di residenti che stamattina ha protestato ad Archi, periferia nord di Reggio Calabria, davanti all'ingresso di un centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati. Prima, almeno per i minori, c'era un atteggiamento più moderato, ora la tensione è alta da Como a Reggio Calabria. Per questo il Viminale ha preparato una bozza per ridistribuire i migranti. La parola d'ordine è alleggerire le metropoli come Roma e Milano e coinvolgere i piccoli comuni. Si parla quindi di incentivi come la deroga al patto di stabilità. Su chi gestirà la partita fra Viminale e Presidenza del Consiglio è presto per dirlo. Tutto questo mentre a margine del summit ONU sui rifugiati l'alto rappresentante per gli affari esteri dell'Unione, Federica Mogherini, difende l'Europa dalle accuse di immobilismo sul tema che arrivano anche dal premier italiano Renzi. We presented the European External Investment Plan. Con il piano per l'Africa e il Mediterraneo da 44 miliardi di euro l'Unione Europea sta trasformando principi in fatti. Per ora però sul piatto di questi 44 miliardi ne sono disponibili solo 3,35. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È una giornata molto pesante quella di oggi per il titolo di Monte dei Paschi di Siena, mentre Milano cede circa mezzo punto percentuale sugli aggiornamenti di mercato specifici. Torneremo più avanti, come sempre, nello spazio delle 13:30. Intanto facciamo il punto proprio sull'Istituto di Credito Senese con Eleonora Micheli di Radio Coro, Il Sole 24 Ore. Eleonora, buongiorno e quali sono le notizie? Sì, buongiorno. In questo momento le azioni del Monte dei Paschi stanno arretrando del 4,1% e ahimè valgono meno di 0,20 euro, di 20 centesimi, 0,19 centesimi. In mattinata sono arrivate tuttavia a perdere oltre l'8% tra uno stop e l'altro. Perché il titolo va giù? Si teme sempre più che sia difficile lanciare un aumento di capitale da 5 miliardi di euro, soprattutto adesso che la banca alla fine vale poco più di 500 milioni di euro. Il Sole 24 Ore quest'oggi sostiene che si allungano anche i tempi per la presentazione del piano di rilancio della banca. Inizialmente l'ex amministratore Fabrizio Viola aveva detto che il piano sarebbe stato presentato entro fine settembre, ovviamente l'avvicendamento ai vertici ha finito per allungare i tempi e quindi si prevede uno slittamento di qualche settimana per il nuovo piano lanciato da Morelli, ma non è tanto questo il problema quanto appunto il fatto che l'istituto dovrà lanciare questo aumento di capitale da 5 miliardi, ancora non si sa quanto, operazione che al limite potrebbe potrebbe ridursi di entità, scivolare a 2-3 miliardi se saranno convertite parte delle obbligazioni subordinate, saranno convertite in azioni, e proprio a questo stanno lavorando gli advisor per la conversione comunque delle subordinate in mano agli istituzionali. Ti ringrazio, grazie ad Eleonora Micheli della Radio Corte Sole 24 Ore per questo aggiornamento, e con i colleghi di Radio Corte torneremo più avanti per il consueto quadro generale sui mercati. Veniamo alla politica, dove al centro della scena resta il Movimento 5 Stelle, tanto per i problemi nella giunta romana quanto per le tensioni interne, e adesso anche per la proposta di modifica dell'Italicum, ossia della legge elettorale. Sentiamo. Settimana a dir poco impegnativa questa per Virginia Raggi. Alle 15 assemblea capitolina per comunicazioni, ufficialmente la relazione sulla delibera che prevede 18 milioni di euro in favore di ATAC, appuntamento dal quale però in molti si attendono il nome del nuovo assessore al bilancio, successore di Marcello Minenna. Domani invece potrebbe arrivare l'annuncio con conferenza stampa sulla partecipazione di Roma alle Olimpiadi del 2024. Le previsioni sono tutte per il no, ma spunta anche l'ipotesi di un referendum sul tema. Confermata invece la sua partecipazione nel fine settimana alla kermesse del Movimento Italia 5 Stelle, ci saranno tutti i sindaci pentastellati, un tentativo di ricompattarsi dopo le tensioni dei giorni scorsi, tensioni sulle quali sono piombate ieri anche le prime rivelazioni di Supernova, il libro di due ex grillini, Canestrari e Biondo, i quali prevedono che quella di Palermo sarà anche l'ultima festa 5 Stelle con Grillo leader. Nel Movimento però nessun commento, mentre ci si dà da fare sulla legge elettorale, presentata in Commissione Affari Costituzionali una mozione sull'Italicum che per i grillini va cancellato tout court, in quanto non è una legge migliorabile perché è antidemocratica e incostituzionale. La proposta è quella di un proporzionale con preferenze. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. È martedì, il giorno dell'analisi di Daniele Biacchesi, che è dedicata oggi proprio all'Italicum. Il presidente della Corte Costituzionale, sentito il Collegio, ha deciso di rinviare il 4 ottobre a nuovo ruolo la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai tribunali di Messina e Torino in merito alla legge Italicum. Perché la Corte Costituzionale ha spostato più in là il suo giudizio? In primis perché la prossima settimana si saprà con esattezza la data del referendum ed un rilievo prematuro sarebbe stato giudicato un intervento istituzionale a favore o conto di uno dei due schieramenti. E per non essere interpretato come organo politico, la consulta alla fine ha preso tempo. Poi, negli ultimi giorni, alcune cose sembrano cambiate. Il premier Renzi, che è anche leader del PD, il partito di maggioranza del paese, si è detto disponibile ad avviare una nuova trattativa con tutte le forze politiche sulla legge elettorale. E poi i ricorsi di Torino e Messina riguardano due punti importanti: le pluricandidature e il ballottaggio, ma dovrebbero essere in arrivo anche altri ricorsi, tra cui uno già protocollato, proveniente da Perugia. Qualora passasse il sì, inoltre, potranno essere presentati ricorsi anche dalle minoranze parlamentari, e la Corte si troverà a decidere con una sola Camera che darà la fiducia anziché due. E insomma, mentre si discute dei cavilli istituzionali nei tribunali, l'Italicum si trasforma nel vero dilemma della politica, sempre più divisa e frammentata e incapace di decisioni definitive. Siamo al fronte del terremoto. A quasi un mese di distanza, una nuova potente scossa in provincia di Rieti. Teresa Trillò è in diretta dalle zone colpite dal sisma e in particolare da Amatrice. Teresa, buongiorno. Ciao Simone, buongiorno. Sono qui ad Amatrice, dove appunto, come tu hai detto, questa notte ci sono state due scosse di terremoto, una 4.0 intorno all'1.34 del mattino, una seconda di 3.2 gradi della scala Richter alle 3.20 del mattino. Ma la vita comunque qui ad Amatrice continua come ogni giorno, i bambini sono a scuola, il sindaco di Amatrice parla di sciame sismico, quindi non c'è molta preoccupazione, anche perché oramai nelle case non c'è più nessuno, le case sono inagibili, quelle del centro storico, e la maggior parte della popolazione è nelle tendopoli. E proprio il sindaco parla della necessità ora di concentrarsi sullo sgombero della tendopoli di Amatrice. Si inizierà venerdì a sgomberare le famiglie che sono ospitate negli 11 campi del comune di Amatrice. Ci sono circa 250 nuclei familiari e la maggior parte di loro andrà nelle seconde case, perché fuori dalla zona zona rossa di Amatrice ci sono circa 5.000 case, seconde case disponibili, e 120 proprietari hanno dato la loro disponibilità. E quindi si comincerà appunto a sgomberare la tendopoli e a trasferire le persone in queste abitazioni, in sostanza, no Teresa? Sì, mi sembra di capire. Sì, assolutamente sì. Quindi appunto oggi qui ad Amatrice la giornata scorre come al solito. In comune ci sono nella zona, cioè nell'area che ospita il comune, c'è anche la Croce Rossa, la Protezione Civile, ci sono le persone che vengono qui, fanno la domanda per controllare l'agibilità della casa, tutto procede come negli altri giorni. Ti ringrazio, grazie a Teresa Trillò in diretta da Amatrice. E noi invece, come già vi dicevamo in apertura, siamo a Genova per l'inaugurazione del Salone Nautico. Molte dirette ci saranno appunto di Radio 24. Noi oggi facciamo il punto proprio su questa inaugurazione, su come è andata. In studio con me c'è Andrea Ferro. Andrea, vai. Sì, buongiorno anche da parte mia. Qualche nuvola oggi nel cielo sopra Genova, sulla Nautica invece è tornato a splendere un sole sempre più convincente. In questa atmosfera che oggi il Salone prende il largo, edizione numero 56 da oggi a domenica prossima, 800 espositori, 180 metri quadrati di superficie espositiva, 100.000 dei quali in mare, caratteristica che rende unica questa manifestazione. Significa prove in mare delle barche, dimostrazioni anche all'insegna dello sport e dello spettacolo. Tra gli espositori da segnalare importanti ritorni, compresi marchi internazionali di primissimo piano. Dicevamo degli sprazzi sempre più ampi di Sereno che si aprono sul comparto della nautica dopo gli anni durissimi della crisi. Qualche numero: il fatturato è cresciuto del 17% nel 2015 rispetto al 2014. E i dati sul leasing nautico forniti da Asilea indicano per i primi 5 mesi del 2016 una crescita del 44% dei contratti e del 26% in valore assoluto rispetto ai primi 5 mesi del 2015. Una delle questioni centrali per consolidare questa tendenza positiva è quella della semplificazione normativa. Su questo punto ascoltiamo il ministro per gli affari regionali Enrico Costa, che ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione in rappresentanza del governo. Ecco, non parte evidentemente il contributo. Andrea, abbiamo qualche problema con l'audio. Vediamo se riusciamo a recuperarlo. Questo è quello che diciamo, nel nostro paese è fondamentale, cercare di non aggravare gli adempimenti burocratici, e parlo è necessario intervenire sul numero di leggi. Il Parlamento c'entra da molto tempo, ci sono delle missioni parlamentari apposite, però è necessario sempre maggiore coraggio. Prima della cerimonia, all'esterno dei cancelli della fiera, il ministro Costa ha incontrato i lavoratori di Ericsson in lotta a difesa dell'occupazione. 147 posti sono in bilico. E per il momento è tutto. Ti ringrazio, grazie ad Andrea Ferro. E tra poco il nostro giro per l'Italia inizierà proprio da Genova, inizierà proprio dalla Liguria. Ospiteremo il presidente della regione Giovanni Toti, con il quale parleremo certo del Salone Nautico, ma parleremo anche di tanti altri argomenti a partire da quella di immigrazione. Sull'immigrazione resteremo per parlare col sindaco di Como, perché la situazione è ancora critica davanti alla stazione, e poi non ci faremo mancare nemmeno noi il grande tema della guerra del panino a scuola. Traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione siamo tornati sulla vicenda dei due tecnici italiani rapiti in Libia, abbiamo parlato della tregua in Siria, abbiamo parlato di Monte dei Paschi e della situazione difficile nella giornata di oggi, siamo andati nelle zone colpite dal terremoto, ci siamo anche occupati di politica, adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e lo iniziamo proprio da qua, da dove siamo, da Genova, dal Salone Nautico e quindi dal Liguria. E lo iniziamo ospitando il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, che ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione del Salone Nautico, al quale chiedo innanzitutto, dandogli il benvenuto nei nostri studi, e chiedo innanzitutto che cosa le sembra di questo salone, Toti. È un salone molto bello, è un salone che rappresenta un giro di boa per il settore. I numeri che le associazioni di categoria ci hanno dato sono numeri positivi per la prima volta, e non è un dato scontato, perché l'economia italiana, come sappiamo, ancora non va molto bene. Però detto questo, è un settore che sta riprendendosi dopo lunghi anni di crisi, e io credo che sia quindi un salone nautico in cui si respira un'aria d'ottimismo, come è giusto che sia dove si fa impresa. Si è molto ragionato sulla centralità di Genova e del salone. Ma il salone è Genova, il salone è Genova da 56 anni, Genova è la storia del mare italiano, il porto di Genova non è un porto, è una leggenda vera e propria, quindi stiamo parlando del cuore della marineria, del cuore della nautica, del cuore della... di porto italiano, quindi Genova e il Salone io le considero un'identità e su questo abbiamo lavorato molto come regione, abbiamo lavorato molto con Ucina, l'associazione che organizza questo Salone, abbiamo ovviamente investito anche perché questo accadesse, sia in termini di impegno sia in termini di denaro pubblico, e io credo che la città debba tenere questo gioiello con grande cura. La porrei anche un attimo sui temi politici, visto che l'abbiamo in studio con noi. A partire da questo, nei giorni scorsi vi siete incontrati con il Presidente della Regione Lombardia e con il Presidente della Regione Veneto per parlare del tema degli immigrati, come è centrale evidentemente per una serie di regioni. Oggi ci sono indiscrezioni che parlano di un nuovo piano del governo che prevedrebbe di fatto una maggiore distribuzione nei piccoli comuni e anche una sorta di risarcimento economico ai comuni per ogni profugo. È chiaro, e noi l'abbiamo contato, lo raccontiamo tutti i giorni, che il sistema di accoglienza fino a questo momento non ha funzionato come doveva. Le sembra una buona ipotesi una distribuzione più ampia sul territorio? No, guardi, mi sembra che stiamo sempre sul socco del medesimo errore. Come presidenti di regione ci siamo incontrati io, Moroni e Zaia per fare alcune proposte, esattamente 9 proposte di governo che saranno in discussione alla conferenza delle regioni la prossima settimana, che ci auguriamo Renzi voglia prendere in considerazione. Sono proposte non provocatorie, non brutalmente di provocazione politica, ma di assoluta Eccoci qua, scusate, l'intervista col presidente della regione Liguria Toti l'abbiamo registrata più o meno mezz'ora fa, giusto prima della trasmissione, abbiamo avuto qualche problema. Adesso ci torneremo, vedremo se riusciremo a farvela ascoltare e vedremo un attimo appunto se riusciremo a risentire l'intervista con Giovanni Toti, nella quale, come avete sentito, abbiamo parlato anche dei temi di immigrazione, in particolare appunto ci siamo occupati del nuovo piano di accoglienza del quale abbiamo trattato nella prima parte della trasmissione appunto del tema soprattutto di questo nuovo piano di accoglienza previsto dal governo, immaginato dal governo, che prevede una distribuzione maggiore nei piccoli comuni. Noi adesso vediamo, dovremmo essere in grado di collegarci con Como, visto che stiamo parlando di immigrazione e il prossimo punto del nostro giro per l'Italia è proprio questo, è Como. Saluto Mario Lucini che è il sindaco. Sindaco, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, a Como ci siamo tornati più di una volta in questo periodo proprio per raccontare quanto sia in crisi il sistema di accoglienza e presenti dei grossi problemi. Che cosa succede a Como? Succede che molti immigrati, che siano clandestini, che siano richiedenti asilo, che siano profughi veri e propri, provano ad arrivare in Svizzera. In Svizzera vengono respinti, ritornano a Como e si fermano sostanzialmente davanti alla stazione. Al momento più di 300 persone, di cui 90, se ho capito bene, sindaco, sono state trasferite, però altre vogliono rimanere là. Ho capito bene? Sì, più o meno, anche se è abbastanza fisiologico che andasse così. Anzi, io sono abbastanza soddisfatto del fatto che già il primo giorno almeno una novantina di persone hanno usufruito del centro di accoglienza che è stato allestito dalla prefettura, perché il miglior modo per convincere è quello attraverso il passaparola tra le persone che usufruiscono del centro e ne capiscono i contenuti e le modalità di fruizione. Quindi come primo giorno 90, volendo fare un accompagnamento informato e non coattivo, penso sia positivo. Tutto sommato, dice lei, va bene. Dall'altra parte, sindaco, c'è il tema che questa cosa non si ferma, perché le persone che vogliono andare in Svizzera continueranno ad arrivare, continueranno ad essere respinte e continueranno ad arrivare a Como. Immagino che sia una situazione discretamente insostenibile per quanto vi riguarda. Ora, non voglio dire che sia simile a Ventimiglia, ma non siamo molto lontani. Sì, non siamo molto lontani, la situazione è sicuramente difficile. Devo dire che è stata affrontata in modo eccezionale e straordinario dalla città, nel senso che c'è stata una grande mobilitazione di associazioni e anche singoli cittadini a partire dal mese di luglio, quando è cominciato a manifestarsi questo questo fenomeno. Era indispensabile che intervenisse il governo attraverso la prefettura con la messa a disposizione di soluzioni alternative. Questo è stato fatto in tempi abbastanza brevi. È chiaro che questo è un punto, la punta di diamante di un problema molto complesso e che certamente non si può risolvere a livello locale. È chiaro che non si può risolvere a livello locale. Avete già chiesto aiuto al governo in termini di uomini, in termini di mezzi, in termini di aiuto per snellire la situazione, per cercare di svuotare questa parte davanti alla stazione, che sarà anche un problema per i suoi cittadini, immagino, oltre che per chi arriva a Como? Beh, certamente non è una situazione, la situazione di queste settimane non è una situazione auspicabile né in termini di rispetto della dignità delle persone né in termini di decoro della città. Fortunatamente, ripeto, la risposta della città è stata tale per cui non ci sono state particolari tensioni sociali. È evidente che a lungo andare con questi numeri le cose potrebbero complicarsi, per cui è importante che si sia attivata questa possibilità. C'è da dire che da qualche settimana rispetto ad agosto siamo arrivati a superare le 500 persone ed era veramente complicato, insostenibile. Adesso si è un po' stabilizzata intorno alle 300 persone che potrebbero essere tutte ospitate temporaneamente nel campo per un'informazione giuridica personalizzata, perché ciascuna di queste persone possa operare la propria scelta in termini consapevoli e a questo punto anche alleviare un po' la condizione della stazione. È chiaro che sentite anche le forze dell'ordine della prefettura, c'è la volontà di far sì che questo passaggio sia il meno traumatico possibile, quindi il più possibile accompagnato ed informato. Quindi ci si dà qualche giorno di tempo perché si possa trasferire la situazione al campo. Trascorsi questi giorni, che non hanno un numero preciso, però è chiaro che non si potrà più stazionare davanti alla stazione. Quindi noi contiamo che anche col passaparola, capendo che questo campo è un'opportunità per vivere meglio una condizione comunque difficile, ne possano soffrire tutti in modo da poter vedere soddisfatte le proprie richieste di informazione, di conoscenza e scegliere la strada per il futuro. La ringrazio, grazie Mario Lucini, sindaco di Como, le auguro una buona giornata. Noi ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi riprendiamo il nostro giro per l'Italia. Effetto giorno. Scorta da poco tolta ai tecnici rapiti in Libia, riferiscono i loro amici, sequestrati da fuori legge, dicono fonti locali. Verso un nuovo piano per l'accoglienza. Più migranti nei piccoli comuni, 50 centesimi per ogni richiedente asilo. I 5 Stelle contro l'Italicum chiedono il ritorno al proporzionale e le preferenze. Incubo finito per il momento a New York, dove è stato arrestato l'afgano autore dell'attentato. Odiava l'America e i gay, racconta l'ex compagna. Questi i nostri titoli, questo Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Al microfono sempre Simone Spezia, la Borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo e proseguiamo il nostro giro per l'Italia e lo proseguiamo andando a Nicotera e siamo in provincia di Vibo Valentia. Beh, ieri vi avevamo dato la notizia, tra l'altro mi è arrivata la correzione da qualche ascoltatore perché avevo messo l'accento sbagliato. La vicenda è di questo elicottero affittato per una persona che pare collegata a una famiglia mafiosa della zona che atterra nella piazza del paese per il suo matrimonio e tutti negano di aver dato l'autorizzazione, tutti dicono non sono stato io, non è stato quello, non è stato quell'altro. Nel frattempo abbiamo appreso dai giornali di oggi che tra le persone che attendevano l'elicottero là in piazza c'era una persona collegata ad un altro volo di elicottero famoso, quello per il funerale di Casa Monica a Roma. Siamo in linea, lo ringraziamo per averci concesso un po' del suo tempo con Michele Sirgiovanni, che è procuratore facente funzioni di Vibo Valentia. Buongiorno procuratore. Buongiorno. Benvenuto. A tutti. Su che linee state indagando voi? Perché mi sembra di aver capito che è divisa tra due procure la cosa al momento, no? Guardi, io posso parlare per quello che è ovviamente di competenza della procura. Ovvio, infatti quello le chiedo, procuratore, prego. Noi abbiamo riscontrato degli atti amministrativi che allo Stato sul piano oggettivo sembrano legittimati sotto diversi profili. Quindi le ipotesi che stiamo vagliando sono l'abuso d'ufficio e l'omissione d'atti d'ufficio, perché a nostro avviso, prima di rilasciare alcune autorizzazioni, andavano anche obbligatoriamente fatte alcune verifiche che non sono state fatte. Quindi ovviamente è... sul piano soggettivo, il perché di questi atti, il motivo di questi atti, ovviamente è oggetto dell'indagine. Questo naturalmente. Quando parla di tutto questo, ci parla in sostanza delle autorizzazioni date per l'atterraggio e per il volo di questo elicottero, mi sembra di aver capito, e la chiusura del paese, il fatto che di fatto il paese sia stato chiuso per consentire questa cerimonia, no? Sì, il dato oggettivo è che sono state rilasciate alcune autorizzazioni che, da una prima analisi sembrerebbero viziate sotto il profilo della legge. Ripeto, le motivazioni per cui questo è stato fatto saranno oggetto dell'indagine. Certo è che nel pomeriggio del 14 si è avuta questa discesa di un elicottero in pieno centro storico di Nicotera, che è un territorio, diciamo, per altri versi già interessato da diverse indagini per quanto riguarda sia la procura di Vibo sia la procura distrettuale. Certo, della procura distrettuale antimafia. Procuratore, è accertato che il sindaco fosse presente alla cerimonia? Perché su questo si è appuntato, no? si sono appuntate un po' di discussioni. Nelle scorse ore qualcuno ha detto no, lui ha fatto qualche intervista dicendo ah ma no, figuriamoci se ne sapevo qualcosa. È accertato che fosse la cerimonia o no? Guardi, dalle informazioni che abbiamo, però ripeto, questo non è un profilo di per sé stesso su cui si apre un fascicolo. Certo, questo elemento è un elemento che potrebbe essere vagliato nel contesto dell'indagine. Il dato è acclarato che fosse presente alla banchetta nuziale e non alla cerimonia. Ma io, quando parlo di atti amministrativi, mi riferisco a una serie di atti amministrativi. Sì. Quindi al di là della posizione del sindaco, delle posizioni dei singoli in generale, del sindaco e del suo staff, io per adesso mi soffermerei sugli atti amministrativi. Detto questo, il comune di Nicotera è già stato sotto due volte passato e noi auspichiamo in qualche maniera che sappiamo che c'è una prefettura presente, attenta, sollecita, e noi auspichiamo che la risposta dello Stato sia a 360 gradi per tutti i fatti penale che si possono verificare su quel territorio. Certamente. Ci saranno velocemente, ci saranno indagati a breve, procuratore ce lo può dire questo? Non le chiediamo i nomi ovviamente, le chiediamo solamente se c'è già in gioco qualcosa. Guardi, per quanto ci riguarda, poiché anche la tempestività della risposta dello Stato è importante, le posso dire che ci sono già ipotesi di reato e ci sono già dei nominativi. Detto questo, io ovviamente sui nomi non posso dire nulla, se non che faremo tutte le indagini per verificare e per capire bene perché sono stati fatti e adottati certi atti. La ringrazio, grazie al procuratore facente funzioni di Vibo Valentia, Sir Giovanni, anche per il tempo che ci ha concesso per raccontare questa storia. Beh, come già vi ho detto in apertura, non potevamo farci mancare il tema della querelle del panino, e per farlo nel nostro giro per l'Italia andiamo a Bologna. Annalisa Migliari, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, fa parte di un gruppo di genitori che sta chiedendo la possibilità di portare quella che a Milano si chiama la schiscetta fretta ai bambini, cioè invece di mangiare in mensa si portano il panino. Tutto questo sulla scorta della sentenza, ormai i nostri ascoltatori lo sanno perché ne abbiamo parlato un po' dappertutto, della sentenza di Torino che obbliga una scuola, solamente per quanto riguarda i ricorrenti per il momento, a consentire ai bambini di portarsi il cibo da casa. Allora Migliari, che battaglia state conducendo, quanti siete e come sta reagendo l'amministrazione? No, noi in realtà non stiamo già conducendo una battaglia, diciamo che per il momento stiamo raccogliendo i nominativi degli interessati a fare a chiedere l'autorizzazione della dirigente scolastica della nostra scuola a portare il pasto da casa. Questo perché ci è stato indicato dall'ufficio scuola essere il primo passo per poter essere poi cancellati dal servizio. Quindi ecco, attendiamo di sapere cosa ci dirà la dirigente. So che stanno comunque valutando, so che insomma ci devono essere degli incontri perché anche loro dovranno capire. Quindi come non hanno detto no, non hanno detto no a prescindere, Migliari. No, la dirigente in una nota alle famiglie fa sapere di non avere detto di non avere una posizione negativa in assoluto. Semplicemente credo che stiano valutando come organizzare anche a livello pratico la questione. Certo. Noi però vorremmo comunque avere da lei un'autorizzazione in questo senso. Ecco. Quindi non li state già rifornendo di panini? Ma che problema c'ha questa mensa, Migliari? Me lo spieghi? No, vabbè, io non è che voglio demonizzare la mensa. Di fatto io come altre famiglie non siamo soddisfatti del servizio, per cui più che altro noi chiediamo di esercitare il diritto a scegliere un servizio a pagamento all'interno della scuola pubblica. Questo quindi non è una questione di costo, è che fa schifo, la dico brutalmente. Beh, anche, insomma, un po' tutte e due, nel senso costa molto e non è molto appetibile. Quanto costa? Quanto vi costa? Ma guardi, costa alla fine sì, andiamo intorno ai 7 euro a pasto. Euro a pasto, che sì, è più o meno. Sì. Insomma, e quanto ci fa con 7 euro con la schiscetta? Quanto ci fa? 3-4 giorni? Non glielo so dire, eventualmente poi glielo faccio sapere se ci danno la possibilità di partire. Vedremo, no, però, la ringrazio. Prego, sì. Prego. No, la devo chiudere. Grazie ad Annalisa Migliari per essere stata con noi da Bologna, una delle tante persone che sta conducendo questa battaglia del panino, che siate d'accordo oppure no. Il traffico, Mario Platero, non siamo riusciti a farvi riascoltare l'intervista con Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, ci sono stati dei problemi tecnici, me ne scuso, magari vedremo se riusciremo a recuperare qualcosa domani, perché gli argomenti trattati, dall'immigrazione al tema delle moschee, sono comunque degli argomenti interessanti che secondo me vanno recuperati. Traffico, Platero, a tra poco.